Ma che cazzo di Barbie mi ha comprato? È tutta storta, la testa rasata, i denti gli arrivano qua, ma... Oh, sta Barbie allattato, vabbè, poi c'è la crisi, e vai che canzoncina di mia madre, crisi per mangiare, crisi per bere, crisi per MS mai! E noi andiamo al Magna Grecia Teatro Festival, dove stasera Locri, Eleonora Danco e Emanuela Lossicco recitano il loro spettacolo Nove parti del desiderio. Abbiamo sentito prima una clip intrattenimento violento di un altro spettacolo di Eleonora Danco. Invece, buon pomeriggio Eleonora, di che parla questo spettacolo? Buon pomeriggio a tutti. Questo nuovo spettacolo non è un mio testo, è stato scritto da un'attrice iracheno-inglese che si chiama Ether Raffo, che durante l'occupazione americana in Iraq ha fatto una serie di interviste a donne irachene di varie classi sociali provenienze, donne di strada, barbone, venditrici ambulanti, intellettuali, pittrici, bambine, ragazzine, casalinghe, quelli insomma che sono quasi tutte casalinghe, sono in paga a lavorare, e ne ha tratto un lungo testo, fatto tutto di monologhi, con una scrittura però non giornalistica, cioè queste interviste hanno una scrittura asciutta, diretta, sono dei testi molto, anche dei monologhi molto duri, ti dicono proprio la vita che facevano, anche le torture che facevano il regime di Saddam, non c'è nessun uomo in scena, siamo quattro attrici, in realtà sono nove parti del desiderio, dovrebbero essere nove attrici, e l'autrice stessa che è un'attrice anche in America è stato rappresentato, mi hanno detto 10 anni, e li faceva tutti lei a volte questi ruoli, qui invece siamo quattro attrici perché Giorgio Albertazzi, che è il direttore del Magna Grecia Festival, mi ha chiesto appunto di metterlo in scena e avrebbe avuto piacere che ci fossi anch'io in un ruolo, quindi mi sono relegata diciamo una parte minore per seguire meglio la regia. C'è Emanuela Losicco, che è un'attrice straordinaria, proveniente, un'attrice protagonista di tutti gli spettacoli di Amadante, e veramente molto adatta a questo spettacolo che è molto fisico, terreno, ma anche allo stesso tempo gli ho dato una lettura più di leggerezza, onirica, sembra un quadro in movimento. E poi c'è Evita Ciri, un'altra giovane attrice, è una debuttante di 81 anni che ho fatto debuttare io e sta riscuotendo un successo pazzesco, e siamo qui in Calabria, questa sera è l'ultima replica a Rocri. Tu mi sembra che, abbiamo sentito anche intrattenimento violento, privilegi il neorealismo come tipo di teatro. In realtà, a me neorealtà, forse la posso chiamare così, interessa la realtà, le persone cerco sempre di portarle a un livello di alterazione, cioè gli attori, i personaggi, le regie, ma sempre in un livello come se accadesse in quel momento, ecco, deve accadere in quel momento, deve accadere quindi anche all'attore, quindi chiedo all'attore molto in realtà. Noi siamo pieni di corpi, no? Tutto il giorno, le persone, le parole, il teatro non può riproporcele in una maniera anche contraffatta perché è teatro, capito? Lì il teatro muore. E il teatro deve anche l'obbligo, secondo me, l'attenzione, e deve avere la guardare verso questa direzione, cioè di far emozionare le persone attraverso qualcosa che le persone possano dire oddio, quello sono pure io. E questi monologhi in realtà sono durante l'occupazione americana, si sente molto la guerra, il trauma, ma potrebbe essere anche tutte queste donne, potrebbero essere la Siria, è molto contemporaneo. La Siria, la Libia, ma ti dirò per tanti aspetti anche l'Italia, forse l'Italia anche di 40 anni fa, anche se queste donne, la cosa che mi è piaciuta e per cui ho accettato anche la proposta del maestro Albertazzi, al quale comunque non avrei mai detto di no perché è un grande, che queste donne non è che rifiutano il velo, rifiutano la loro cultura, questo è interessante, loro sono molto radicate invece nella loro cultura, solo che è come se gli fosse stata tolta la memoria. Quando sei obbligato a vivere una situazione da adulto di repressione, è come se ti viene tolta l'infanzia, capito? Come se ti viene tolta la parte adolescenziale di te persona e la tua memoria, quindi. E quindi fai una vita di repressione. Per esempio queste donne, che personaggi sono? Che ruolo interpreta? Tutte noi facciamo diversi personaggi perché sono nove parti e siamo quattro attrici, tranne la signora Wanda Morello che interpreta la venditrice ambulante che apre e chiude lo spettacolo, che in un ciglio di strada vende questi quadri, queste cose che si ricollegano poi alla fine invece a tutto quello che è successo all'inizio. Io faccio il ruolo di un'americana che vive da New York la guerra, cioè la vive dal suo paese e ha questi parenti in Iraq, non può parlare con loro, e quindi è un personaggio, diciamo, che improvvisamente spezza tutto il mondo iracheno di queste immagini che ci sono per tutto lo spettacolo, no? Di questi costumi che ho fatto in questo primo studio, poi in realtà a rivisitare, e abbiamo questi teli neri, questi drappi, e invece lei è l'unico personaggio con una musica, un ritmo completamente diverso. Insomma, uno spettacolo che sicuramente è da vedere, 9 parti del desiderio, stasera a Locri, presso il Tempio di Marasà. Eleonora Danco, Emanuela Losicco, in questo nuovo spettacolo al Magna Grecia Teatro Festival. Grazie. Grazie a voi, a presto. E noi andiamo al Gay Village di Roma, dove sentiamo la sigla un po' particolare del Gender Docu Fest che si apre stasera e va avanti fino a sabato. Il direttore artistico è Giona Nazzaro. Buon pomeriggio, Giona. Allora, di che cosa parlate in questa rassegna cinematografica? Buonasera a tutti. In questa terza edizione del festival Gender Docu Film Fest puntiamo l'attenzione sul tema della politicità del corpo, ossia il corpo come territorio e terreno politico dal quale ipotizzare nuove forme di socialità, comunicazione, interazione e così via. Quindi voi partite praticamente, perché fate un viaggio in tutto il mondo, no? E stasera con un film francese, e per andare poi vedo anche addirittura sui palestinesi gay, a Cuba, in Austria, insomma sono tutti quanti cortometraggi, immagino, o lungometraggi? Allora, si tratta di lungometraggi inediti in Italia, tutti i film della competizione sono prime nazionali, in alcuni casi si tratta addirittura di prime europee. E ovviamente il senso è quello di mostrare uno spettro molto ampio a livello proprio mondiale di tutta una serie di problematiche. Il film, questa terza rassegna del Gender, si distingue per il suo carattere spiccatamente politico. Questa sera avremo un film che mostra il lavoro fatto da due donne per poter avere una gravidanza e una famiglia. Un film che abbiamo posto in apertura non a caso, per poter lanciare anche un segnale e dire che altre famiglie, altri modelli di vita sono possibili e che se si desidera qualcosa non ci si dovrebbe fermare di fronte agli ostacoli che pongono confessioni o ideologie politiche. Ecco, poi nel venerdì vedo questo The Invisible Man, i palestinesi gay minacciati di morte dai propri familiari sono costretti a rifugiarsi in Israele, quindi questa è anche una denuncia. Poi invece vedo Das Outing in Austria il sabato, un giovane archeologo racconta in macchina cosa significa per lui essere pedofilo, questo è un po' pesante. No, non è affatto pesante, perché bisogna distinguere tra il tabù e l'interdetto che circondano determinate cose, perché nonostante ci freggiamo di essere una società nella quale esista la libertà di parole e di opinioni, in realtà ci sono delle cose di cui non si può parlare, pena l'interdizione sociale e lo scandalo, e mentre invece tutto può essere discusso, tutto può essere affrontato. Nella fattispecie Das Outing è un film molto coraggioso, perché pone nell'arco del film una serie di problematiche molto serie, molto forti, in maniera assolutamente non scandalistica o sensazionalistica. La persona che si confessa in macchina dichiarando la propria pedofilia offre anche un quadro scientifico molto preciso di questa cosa, e soprattutto quel che viene fuori è il ritratto di una persona consapevole che ciò che prova non solo non è approvato, ma che molto probabilmente è anche, virgolette d'obbligo, sbagliato, e che di conseguenza tenta di vivere con se stesso, ma anche correggendo le proprie inclinazioni, cioè responsabilizzandosi nei confronti di una società che invece vorrebbe condannarlo al silenzio, vorrebbe che non si rivelasse, vorrebbe che non ponesse problema. Il film sui profughi palestinesi è un film che mi sta molto a cuore, perché è un film su delle persone che sono doppiamente esuli, doppiamente profughi, doppiamente fuggiaschi, cioè in fuga da una società che tollera l'omosessualità solo se taciuta, solo se negata, solo se vissuta a porte chiuse, e che sono costretti a fuggire verso il paese che in realtà è il principale oppressore degli arabi. E ricordiamo, anche per lottare e per vedere delle realtà che alle volte sono anche scomode, come se abbiamo sentito in queste pellicole che verranno mostrate al Gay Village di Roma, basta andare al Gay Village di Roma da stasera fino a sabato 25 agosto per il Gender Docu Film Fest. Grazie Giona. Grazie a voi, buona giornata. E noi andiamo a Bassano del Grappa, all'Opera Estate Festival Veneto, Folks, dalla tradizione della danza tirolese al loop di Sciarroni, di Alessandro Sciarroni. Insomma, è uno spettacolo di danza folcloristica su tirolese. Di che cosa si tratta, Alessandro? Lo spettacolo si chiama Folks ed è ispirato alle danze della tradizione del Tirolo e della Bavaria, che si chiamano Schuhplattler, che in tedesco significa battitore di scarpe. Infatti sono questi balli ritmici e percussivi che tutti avranno visto eseguiti con il costume tradizionale, con le classiche bretelle, eccetera, eccetera. Con i Lederhosen? Sì. E noi abbiamo studiato questi balli, siamo andati proprio in Sud Tirolo a conoscere una compagnia tradizionale che pratica ancora oggi questi balli. Siamo rimasti molto affascinati del fatto che questa tradizione fosse ancora viva, ancora praticata, e quindi non soltanto un fenomeno esotico per turisti, ma proprio ancora molto sentito all'interno di queste comunità. E quindi abbiamo deciso di prendere questi balli e di provare a descrivere un po', no, l'andamento di questa tradizione, perché è una tradizione antichissima che le prime fonti addirittura risalgono al 1050 e ancora oggi vengono praticate. Quindi nel nostro lavoro noi accogliamo il pubblico mentre stiamo già ballando, e al termine della performance in realtà già dall'inizio annunciamo al pubblico che la durata sarà variabile, perché la performance durerà o fino a quando almeno uno spettatore rimarrà a guardarsi ballare, oppure fino a quando almeno un performer, almeno un danzatore avrà ancora, diciamo, un'energia fisica e mentale per continuare a praticarla, fino a quando, diciamo, il danzatore sentirà che sta creando un vero scambio di energia tra ciò che avviene sulla scena e ciò che avviene nella sala con il pubblico. Quindi la durata è molto variabile, abbiamo fatto dei lavori da 1 ora e 10 fino anche a volte 2 ore, 2 ore e mezza. Alessandro, quanti siete che ballate? Siamo in 6 in scena, e c'è anche Pablo Asbert Lilienfeld che balla con noi, che allo stesso tempo opera live con le sue musiche, perché abbiamo la musica in scena, e siamo 5 ragazzi e una ragazza. Ma perché dalla danza tirolese al loop di Sciarroni? Quindi tu l'hai reinterpretata questa danza? No, noi abbiamo voluto mantenere in realtà un atteggiamento molto filologico e molto rispettoso, perché appunto essendo ancora viva abbiamo studiato esattamente i passi così come sono. Noi probabilmente nel comunicato che tu hai si parla di loop perché la nostra sequenza di circa 2-3 minuti viene ripetuta all'infinito, diciamo, quindi in loop. All'interno di questa ripetizione c'è sempre una variazione coreografica. E a mano che il corpo si carica di questa energia potentissima che nasce da, appunto, dalla stanchezza, dalla fatica, dalla percussione, ogni tanto il corpo si ferma e rilascia questa energia in quelle che noi abbiamo chiamato delle anomalie compositive, per cui il corpo dei danzatori nel momento in cui smette di danzare per un attimo raccoglie questa energia che ha accumulato e la rilascia entrando in relazione con gli altri, con lo spazio e anche con il pubblico. Ecco, questa

tantissimo, sì, tantissimo. Non credo che nascendo in un altro posto avrei fatto le stesse cose, lo stesso lavoro. Sicuramente penso che sia la maggior parte, insomma l'80% di quello che faccio che mi viene in mente per il mondo dove sono vissuta. Ma secondo te la comicità è napoletana e romana per la maggior parte in questo paese? Ma no, guarda, no, non credo. Penso che sia anche toscana, anche di tanti altri luoghi. A me riesce difficile perché pensare un altro luogo, però voglio dire, perché tante cose sono proprio un aspetto dei napoletani, al di là del dialetto. Per questo dico che mi sembra difficile pensarlo in un altro posto. Comunque noi dovremmo parlare con quel tono un po' più veloce da radio. Allora, lentamente. No, va benissimo. Noi sai, siamo la radio parlata, quindi va benissimo così. Allora, Sesso senza cuore di Rosalia Porcaro per la rassegna Ridere, il Festival del Teatro Comico e del Cabaret a Napoli. Dove sarete questa sera? Al Maschio Angioino, a Napoli. Che splendore. Guarda, davvero. Allora, chi si trova a Napoli, assolutamente per andarsi a fare quattro risate. Grazie. Va bene, grazie a voi, a presto, ciao. Quante volte ti ho aspettato, abbracciato al mio cuscino. Quante volte ti ho cercato, goppa al tuo telefonino. Mi sento da lei chiamato, non è disponibile. Ok. Senti da lei chiamato, è occupato. E mamma! Senza cuore, sento senza amore, quello che stanotte va cercando tu. Senza amore, senza malincuore, sento senza amore, non lo faccio più tu. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona serata da Elisabetta Fiorito.